Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino, alla parte tecnica Simone. Une. Anni e anni per studiare una sigla così. Allora, ho detto tre parole, mi sono già intrigato quattro. E buonasera. Considerando che finora non ti sei fermato dalle cavolate, siamo tutti pronti. Sergio, che ci sono tutti, pubblico accosciato e giovedì seduto. 12 febbraio. Terza decade acquario. Te lo sai bene. Certo. Dopo una settimana di pausa meritata, soprattutto ecco, per le vostre orecchie. Questo è molto opinabile. Ecco, questo sì. Possiamo iniziare un'altra splendida trasmissione, puntata di Piazza Alta. Fermatemi, vi prego. Ma non era Sanremo, scusa? Perché Piazza Alta è Piazza Alta. Un inizio fotonico, caro il mio Marzi. Fiumeggiante. Perché direi. Questo era Sir Paul McCartney con coming up. Andiamo. Non sbaglio più una pronuncia. Piazzalta. Questo piazza è il primo, aspetta, il primo album da solista di Paul McCartney, che si intitolava McCartney II. Buon ascolto dalle F frequenze. Ma questo cos'è allora? Simpatici amici. Dici un po' come chi è siamo e come è giovedì ci ascoltiamo. Sera. È l'appuntamento del giovedì sera quando ci siamo. Sì, no, sempre, no, perché abbiamo saltato una settimana perché avevo qualche problemino con la voce, vabbè, poco male, insomma. Sì, sì, no, ma il problemino con la voce è il minimo, insomma. Forse per quello dovremmo saltare tutte, esatto, le settimane. È tutto il resto che non va. Siamo qui in studio con ospiti graditissimi e importanti. Bravo, ma di questo ne parliamo fra 35 30 secondi. Perché intanto, prima chi siamo? Chi siamo? Io lo so. Il mio analista. Ci potete ascoltare in streaming su www.radiof.it o 101.2 degli FM di frequenza. Niente, dai, parla. Ok, potete anche farlo scaricando la nostra app per Apple e Android. Yes. Oppure da domani sulla nostra pagina Facebook. E poi salutiamo anche Paolo che sta facendo le riprese, perché poi tutto questo lo ritroveremo, finirà sul nostro canale YouTube Piazzalta. Ma salutiamo anche il nostro tecnico nonché regista alla console, Simone. Ciao a tutti. Guarda, abbiamo finito, il saluto, sì. È già passato un quarto d'ora. Il saluto no. di Simone ma è l'apice. Questa sera parliamo, caro il mio Marsi. Sì. Parliamo, come avrete capito, parliamo solo di Fogliano è ricco di associazioni culturali e non che danno grande lustro al nostro paese. Non è che paese. Parliamo solo di questo, ma siccome ce ne sono tantissime e importanti, bravo. È un argomento che ci dà molte risorse. Bravo. Per poter fare le nostre trasmissioni, esatto. Ma forse, una delle quelle che dà più lustro in assoluto alla nostra, al nostro comune è l'associazione culturale Scannagallo. Attenzione! La battaglia di Scannagallo, uno scontro ferale, un'impresa, una storia vera nelle nostre terre, un'icona dei nostri tempi, il risveglio di un popolo dal torpore millenario consacrato nel tempio di Santo Stefano della Vittoria. Dal 2 agosto 1554 un segnale che a Fogliano si combatte, stasera a Piazzalta. Thank you. Populous con Fall. Adesso facciamo così, io dico il titolo e poi vediamo col traduttore se ho detto bene. Ho detto Fall, eh? Perfetto. Si sta perfetto. Beh, vediamo se la tecnologia ci aiuta un po'. Ma vogliamo dire qualcosa di questo brano? Ma se proprio devi. Ma per, un pochino per gratificare anche Simone. La traccia dai. Numero 2 del nuovo disco Night Safari. Vuoi che ripresenta anche? No, il no, okay? Su questo ti diamo uscito la da fine. Poche settimane, come sai in questo momento. Meno male, beh. Ma oh, finalmente presentiamo i nostri ospiti a Piazzalta. Questa sera, come dicevamo prima, abbiamo gli amici l'associazione culturale di Scanagallo. Allora, però lo fai te. Presentati. Beh, così, va bene. Io ho davanti a me Alessio. Buonasera. Vicino a lui Imo e vicino a me Silvia. Poi buonasera. Le potete rivedere. Ciao a tutti. Perché dico la location? Ora te mi guardi, ma su YouTube si vede. Si vedrà, certo. Certo. Ma... Allora, Silvia, Imo e Alessio, chi vuole dirci qualche cosa? Abbiamo solo introdurre perché... un microfono. Introdurre l'associazione culturale Scannagallo. Alessio, indicano tutti. Che ruolo hai tu, a parte diciamo il Lanzichenecco, qualcosa di... No, Lanzichenecco, no. Attenzione, sapevo di creare subito il pathos e la polemica. Una alla volta, aspetta. Prima parliamo delle vostre cariche istituzionali all'interno dell'associazione e poi dopo ci divertiremo a raccontare quello che fate. Va bene, va bene. Allora, istituzionalmente all'interno dell'associazione io sono il segretario e mi occupo praticamente di tutto. Tutto. Di tutto. Ecco, tempo perso poi? A tempo perso, quando mi metto il vestito, faccio il capitano senese. Anzi, scusa, sono il capitano senese. Vedi, attenzione, notare la sottile differenza fra il fare e l'essere, giusto? Assolutamente sì, perché io sono. Sempre. Sempre. A tempo perso fai il segretario. Mi sono perso un po' con le congiunzioni e con le coniugazioni, ma penso mi riascolterò. Ma sai, venendo da lontano, una storia che viene lunga, allora sai, l'italiano e lo remoto, l'arcaico, è difficile da parlare, quindi mettendosi un po' di cose... Di che anni si parla? Di che anni si parla? Scegli te. Aspetta. 1500 ora c'è tanti. Aspetta, buoni. Poi, altro ruolo. Imo. Ah. Dica. Che ruolo hai nell'associazione? Io il soldato, il lanzo tedesco, quello che non voleva fare il capitano. Quello che non paga mai, capito? E io faccio casino. Approfondiremo perché anche mi piace questo, questa anche cosa. Questo. Silvia. Diciamo che io sono il consigliere, uno dei consiglieri dell'associazione Scanagallo. E mi occupo praticamente un po' di tutto quello che riguarda la gestione degli abiti, degli accessori, la realizzazione degli abiti. Mi raccomando, giusta definizione, e abiti, non si parla di costumi. Guarda, perché qua se no arriva il capitano. Guarda che io ho proprio una domanda. Ma ti occupi anche del maquillage? Niente. Cioè no, del trucco? No, avevo scritto costumi. Mai, mai, assolutamente mai dire qui costumi, siamo... sono abiti. Ma io infatti vedete, siamo a Foiano, c'è il carnevale storica. E al carnevale ci sono costumi, noi abbiamo gli abiti. Ragazzi, gli abiti. Stasera finisce male. No, siamo fortunati che non avete portato le lance, abiti, esatto, sì, le armi. Sì. No, ma guarda che questo è importantissimo, perché poi ora pubblicheremo anche delle foto e io ho assistito a alcune rappresentazioni vostre. I vestiti sono realmente bellissimi. Ho detto vestiti? Meno male, va. I vestiti sono realmente bellissimi, per cui dopo ci spiegherai un po' che lavoro c'è dietro, dove trovate le materie prime, insomma, per fare i vestiti, eccetera. Certo. Io posso fare... Puoi parlare come se fosse la tua trasmissione. Allora, io finirei un po' la parte istituzionale. Quando nasce l'Associazione Culturale Scannagallo? Che domanda allora, intelligente. L'Associazione Culturale Scannagallo come associazione è nata nel 2003. Come comitato è partito dal 2000, è entrato in esercizio, se mi passi il termine, nel 2001. E da dove è nata, diciamo, la voglia, l'esigenza di promuovere, diciamo, questa associazione, questo comitato, con questa finalità, con questo argomento della famosissima battaglia di Scannagallo? Nacque tutto nell'assessorato alla cultura di quegli anni, quando c'era la signora Vincenza Seriacopi, che ebbe questa idea insieme a Claudio Galantini, e questa sera purtroppo non è potuto venire, e vennero a Pozzo a proporre questa idea e cercarono i cittadini di Pozzo per realizzarla. Le prime riunioni ci fu un po' di gente, io e Silvia siamo arrivati, mi pare, alla seconda o la terza riunione, sì. E gli dissi: guardate, a Siena un pochino di cose sull'argomento si conoscono, da allora diciamo non mi ha smesso di parlare, ancora quindi, parlo. Quindi adesso praticamente è stato promosso un'iniziativa per rivalutare, valorizzare, ricercare un evento storico straordinario che si è svolto nelle nostre zone, nelle nostre terre. Sì, sì, sì. No, ora parlando molto seriamente, a livello di storia... Interrompo. Questi rumori che sentite è solo Marcello che ha le braccia e non è abituato ad averle, è solo questo. Io scusa, mi ha interrotto in un momento veramente importante. Molto serio, scusa, molto beh, serio, se gli vuoi rifare la domanda, si riparte. No, guarda, sei in grado? Assolutamente, mi riprendo. La battaglia di Scannagallo è realmente, per quello che riguarda la storia della Toscana, una chiave di volta di tutta la nostra regione, perché Siena, purtroppo in quanto senese, subendo la sconfitta qui a Scannagallo, ha fatto sì che gli eserciti poi fiorentini e spagnoli la tenessero sotto assedio definitivo fino al 1555, anno in cui Siena si arrese, ha perso di fatto la Repubblica, anche se per un po' di anni si è ritirata in Montalcino. È nata la Repubblica di Siena, ritirata in Montalcino, che è proseguita sino al 1559, anno della pace di Cateau-Cambrésis, in cui i francesi alleati di Siena hanno smesso, come succede anche oggi, dare soldi per combattere i senesi, facendo una pace con gli spagnoli, e a quel punto Siena si è arresa definitivamente. Cosimo I de' Medici ha preso il predominio su tutta la regione, e la regione da allora ha mantenuto, salvo una piccola zona di Livorno che era lo stato dei presidi e la parte alta della Repubblica di Lucca, la forma e i confini che ha tutt'oggi. Io veramente sono quasi imbarazzato di questa cultura. No, ma poi tra l'altro a Piazza Alta stasera stiamo mettendo in onda. Tra l'altro, parlando di Siena con accento senese, cioè voglio dire, ci mancherebbe. È come parlare con la regina d'Inghilterra. Vorrò vedere il Nanzi Genecco con che con quale accento parlerà. Se avete in dotazione la birra, ve la fa sentire anche quello l'accento. Possiamo trovarla. Used to be. Club Nothing, Alvarez con... incredibile. Ma ci togli proprio il gusto della traduzione dello slang. E questo gruppo indie rock statunitense, formatosi nel 2009 in Ohio. Ohio. E questo è il loro quarto album, pensa, pubblicato il primo aprile. Bene. Sarà un joke? Uno scherzo? Bene. Volevi dire qualcosa, sì, di serio? Sì, volevo salutare Cinzia che è qui, che è qui con noi, che ha detto non vuole andare in voce, ma che ci fa compagnia, e noi siamo molto felici di questa cosa. Questo studio il giovedì sera si anima e diventa... è bellissimo. Manca il focolare, ma c'è questo schermo che è un focolare moderno. No, quello è un coso. È uno schermo di un computer, dai. Ah, va bene. Ok, io dopo Alessio vorrei fare qualche domanda... a Silvia. No, a Silvia, perché secondo me Silvia ha uno di quei ruoli che è piuttosto importante. È interessante perché mi hai detto che sei un po' l'addetta, la responsabile degli abiti. Degli abiti? Bravo, per questo andiamo via. E per questo, per questo vorrei sapere, appunto, dal punto di vista storico, come fai, come fate ad avere la certezza, diciamo, visto che si parla di più di 500-600 anni fa, che siano realmente degli abiti non risalenti, però di quel tipo, con quei tessuti, con quei colori dell'epoca. Che tipo di manutenzione necessitano e come un po' si svolge la gestione di questo settore che tu hai in carico? Hai 40 secondi. No, scherzo, scherzo. No, scherzo. Puoi anche non rispondere se vuoi. No, va bene, risponderò. Dai. È soddisfatto di fare la domanda. Sì, io. No, no, no. Invece è molto interessante. Risponderò. Allora, per quanto riguarda gli abiti, sono tutte riproduzioni iconografiche. Quindi noi prima svolgiamo uno studio su quelli che sono praticamente i dipinti dell'epoca. Abbiamo fatto riferimento ad esempio anche a Giorgio Vasari, poi abbiamo fatto riferimento a Bronzino, nonché a Tiziano, quindi ci siamo basati su proprio delle riproduzioni iconografiche. Poi ci sono, c'è anche tanti testi sul costume, quindi abbiamo letto, io con Alessio e anche da altri, abbiamo letto praticamente anche molto sulla storia del costume, e in base a questo poi abbiamo realizzato, anzi fatto realizzare praticamente gli abiti. Ecco, quindi gli abiti che voi diciamo indossate sono proprio fatti di recente, fatti contemporanei, diciamo, però su sono contemporanei, indicazioni però su dell'epoca. Indicazioni dell'epoca praticamente sono tutte. Di che tessuto sono? Senti, i tessuti solitamente sono lana, lino, abbiamo il cotone, più o meno sono questi tessuti qui, ecco. E i colori, perché io ho l'immagine che i colori dell'epoca siano molto, fossero molto sgargianti. Sì, erano sgargianti i colori dell'epoca. Ma avevano anche un significato, visto che avete fatto delle ricerche storiche? Il significato, diciamo che c'era una moda praticamente, c'era, come a loro c'era una moda del periodo. Basti pensare ad esempio che l'Italia nel Rinascimento ha dettato la moda in tutta Europa. L'Italia nel Rinascimento ha dettato la moda del tessuto. Cioè, un pittimmagine del post medioevo. Vedi? I tessuti italiani erano quelli più famosi. Ma voi quanto tempo proprio fisicamente ci avete messo per arrivare a creare questi vestiti? Lo studio, la realizzazione? Tanti anni, diversi anni. Iniziamo a fare dei numeri così almeno. Circa 10 anni, perché abbiamo iniziato praticamente, era il 2003. Abbiamo iniziato con le prime. Allora, la prima volta non le abbiamo realizzati noi gli abiti, ma le abbiamo fatte realizzare a una sartoria di Foligno, che hanno realizzato praticamente i primi abiti, che erano due coppie di nobili e altri due ufficiali, perché all'inizio anche noi avevamo delle difficoltà, perché sinceramente non sapevamo nemmeno cosa andare a cercare, dove andare a cercare. Poi piano piano abbiamo cominciato a fare una ricerca sempre più accurata, soprattutto basandoci appunto sui dipinti del Cinquecento, del Rinascimento, e siamo arrivati praticamente alla realizzazione di questi abiti. Però è chiaro che occorre diverso tempo, poi devi preparare il bozzetto, perché lo devi portare praticamente alla sarta che poi lo realizzerà, poi gli devi stare dietro, perché c'è anche un discorso piuttosto lungo e piuttosto complicato. Allora, io ho avuto la fortuna di assistere più volte alle vostre rappresentazioni, i vestiti sono... No, mi guarda, è abbastanza sono veramente curati, Cioè, si cerca di curarli proprio nel più piccolo dei particolari. Quindi, cioè, dire, poi non soltanto ci siamo basati sulla storia del costume, sui vari testi o sui dipinti, ma ci siamo anche basati su quello che abbiamo visto anche ai musei, insomma, soprattutto, esatto, questo soprattutto per quanto riguarda le armi, poi di cui poi parlerà, sì, con Alessio. E non per essere venali, noi non siamo, per noi i soldi non sono niente, vero Marzio? Ma tutto, anche perché non ne abbiamo, quindi tutto. Un costume però quanto può costare? È un costume, dipende. un abito dipende. Vado via, va bene. Vedi, non ci ho pensato. Il costume, vedi, è una sciocchezza, 20-30 euro il costume, sì, da Zorro. E invece un abito da Zorro è un abito, in quel modo dipende chi lo realizza, perché se lo fa realizzare, ci sono le sartorie proprio specializzate, e lì si parla di cifre assurde, perché si parla dell'ordine di qualche migliaia di euro per un abito da militare, e non sto parlando di abiti nobiliari, perché quelli addirittura hanno un prezzo ancora più esorbitante. Tanto per fare un esempio, il gruppo dei Medici di San Sepolcro, che viene a fare la rievocazione da noi e che c'ha l'abito di Caterina dei Medici realizzato dalla sartoria Bip, perché non so se si può fare pubblicità, ma è un nome di una sartoria, la sartoria Parigi di San Sepolcro, okay, proprio, costa la bellezza di 16.000 euro. Incredibile. Scusa, Enzo aveva iniziato un argomento. Quanti siete, e quindi anche quanti abiti avete operativi? Pronti? 44 vestiti. Incredibile, 44 vestiti. E poi parleremo fra un po' anche delle armi, perché sì, questo sì, noi ci sì, interessa. Ma realizzate nell'arco appunto di 10 anni, esatto, perché c'è un lavoro piuttosto complicato dietro. Immagino. Poi chiaramente il lavoro diventa ancora più complicato quando la sarta mi comincia a chiamare per dirmi: mi mandi per favore Tizio, Caio e Sempronio per provare l'abito? Sì. E lì diventa la situazione, si complica, diventa ancora più complicato, perché devi chiamare Tizio, Caio e Sempronio, che poi praticamente organizzarle, io non posso, io non so dov'è, come devo fare, chi mi accompagna. Volevo fare... E lì si entra proprio. Invece, mentre, per dire, no, il vostro vestito da quanti anni l'avete? Io sarà dal 2005-2006. Quindi curato da me. Sei costretto a tenerti in forma. Cioè il trucco, non è che la sì, ma il problema è un altro, no, che non si può dire. Però c'è, ma non si vede. Quando si mette l'armatura c'è qualche problemino, però sono dettagli che è un po' più rigida. Dopo entriamo nello specifico. Vai, buon ascolto dalle F frequenze e poi perfetto. Son of a computer's nose. Back in the day, them twankies didn't wanna Word. I think you're freaky, che sarebbe un gioco di parole che vuol dire praticamente in italiano mi sembri strano, ma giuro che io così non è. Ho parole perché sembra anzi, è un gruppo sudafricano questo, invitare eh? I nostri radioascoltatori a esprimere il loro pensiero. Posso fare una su queste playlist, una breaking news? Sì. Breaking news, allora sì, sei talmente gasato, sì, che esatto, ti consento di farla. Grazie. E alcune settimane fa abbiamo avuto ospite Luca Vanni, tennista, certo, qui nei nostri studi, oltre che un amico. Ecco, adesso appena ho aggiunta notizia che ha vinto il secondo turno, il torneo ATP 250 di San Paolo do Brasile. A giocare in una spiaggia questi arti che danno noia. No, è veramente è un passo avanti enorme. Noi siamo contenti perché siamo certi di avergli portato fortuna. Piccolo passo per l'umanità. È un grande passo per una racchetta. Adesso fai delle domande che volevi fare a chi vuoi tu. Allora, io, visto che il terzo dei nostri ospiti è Imo, volevo chiedere a lui ruolo riveste in questo caso proprio azzeccato all'interno dell'associazione, ma non tanto a livello istituzionale come personaggio o come che cosa rappresenti tu? Il morto ufficiale questo è un buon inizio, no, perché hai una storia da raccontare. Qualcuno deve morire giustamente. Infatti stiamo pubblicando anche le foto sulla battaglia, ma continua con decesso. Il decesso. Troverete anche il decesso, sì. Ecco, scusate, la battaglia di Scannagallo mi risulta sia stata una delle più sanguinose dell'epoca. Sì, assolutamente. Sì. Abbiamo anche dei numeri. 5.000 morti. Questa è la prefettura o gli organizzatori? No, questa è la rilevazione del Foglianese, sono andati a raccattarli tutti. Okay. Ecco perché, tra l'altro, la battaglia dove si svolse precisamente? Nel fosso del Scannagallo. Che sarebbe sotto il pozzo, presente il pozzo. Sì, no, allora diciamo nel territorio che va al confine fra il comune di Fogliano e quello di Marciano, giusto? Dalla parte di sotto. Sì. Dov'è il fosso di Scannagallo? Al fosso di Scannagallo, tra pozzo, la presenza dove è il tempio, la valletta che scende nei terreni della fattoria Santa Vittoria, risale verso Santa Luce. Benissimo. Giù nel mezzo c'è il fosso. Benissimo. E quello era un luogo ideale per una battaglia di siffatta potenza. Perché si è svolta lì? io rispondo. Rispondete, vai, che sei più colto. Si è svolta lì perché lo Strozzi, in ritirata verso Lucignano, stava passando di lì con tutto l'esercito perché non aveva l'acqua per abbeverare i cavalli, in quanto gli spagnoli gli si erano messi con tutta la cavalleria dalla parte di là, e gli impedivano di andare a bere. Questi spagnoli avevano bisogno, maledetto, rompiscatole. Quando ti metti nel mezzo, veramente succede le peggio cose. Ma poi lì c'era già stata un'altra, poi dopo ve lo dico, fa parlare. Allora, dicevo, tu cosa rappresenti? Che personaggio? Io faccio il mercenario tedesco o anche Lanzo, giusto? Lanzo. E che particolarità? Com'è il tuo costume? Il tuo sarà lunga. Sigla. Il tuo abito come si compone? Oddio. Puoi dire qualsiasi cosa. No, perché c'è il corsetto. No, giusto. Di che colore? I colori? Marrone, verde. Abbastanza sobri, quindi. Sì. Calze. Giallo e rosso. Gialli, no. L'ho perso. Ma durante la battaglia mi sembrava regolare. Adesso pubblicherò delle foto e capirete perché le ha perse. Esatto. No. Abbiamo scelto una foto ma giusta. Capirete anche perché c'è così incertezza nella descrizione. Non scegliamo in dettaglio. Ma noi lo mandiamo a trasferta perché da buon tedesco l'abbiamo mandato in Germania. Dove? In Germania? In Germania ci siamo divertiti, bella festa, il finale è un po' meno festoso, però insomma... Anche lì si è conclusa con una battaglia, presumo. Sì, sono tornato con la spalla un po' rotta, però diciamo che... Però è andata bene, ha riportato la pelle, sì, in altre occasioni mi... Delusso, guarda. ma raccontagli come, perché non era in battaglia, giocando. Non è che era giocando, no, particolare. Allora, scusate, ma... c'era un video, però è sparito. Le prove. No, però questa piccola accenno... era una di sfida fra quel signore tedesco, un ragazzo, ora non mi ricordo bene. Questo accenno comunque alla Germania, se mi permettete, mi dà lo spunto per farvi un'altra domanda. Ora, a parte diciamo la storicità che abbiamo noi, che diciamo la vostra associazione ogni anno mette tra virgolette in scena, rievoca, c'è tutta una serie al di fuori anche dei nostri territori di rievocazioni storiche che vi vedono anche protagonisti e partecipanti. Ora, magari se in Germania presumo che tu sia andato anche in un'occasione di questo tipo. Sì, è la festa di Polenpiter, se non sbaglio. Sì, fa una volta l'anno, molto, molto, ma molto, molto bella. Ecco perché, scusa Marci se ti interrompo. Prego. Noi che siamo, no, anzi io vai, te ti lascio il fuori. Io che sono un po' ignorante in materia. Anche ecco, perché io sono molto ignorante. Tu è un po' e io molto. Magari non ci rendiamo conto di quante sono invece queste manifestazioni in cui avvengono queste rappresentazioni. Voi mediamente a quante rappresentazioni partecipate in un anno? O quali sono le più importanti? Fino al 2010 la media nostra era di una quindicina di partecipazioni all'anno. Ora che i soldi sono un po' finiti per tutti, 4-5 all'anno e solitamente le più grandi e quelle istituzionali. Tipo, facci nomi. La più importante dell'anno scorso è stata la partecipazione a Prato, al corteo storico di Prato, dove tra l'altro siamo andati ufficialmente a rappresentare il comune di Foiano e io credo ci siano stati non meno di 100.000 spettatori. Le tribune piene, però... siamo entrati dentro, io che guidavo il corteo vi posso garantire che sei rimasto senza fiato quando 100.000 erano per tutto il percorso, ma le tribune davanti al Duomo, tutte le autorità di tutta la regione c'erano praticamente lì, ma io credo almeno 10.000 persone c'erano lì tutte insieme. Però... E fa impressione. E quell'altra è la cavalcata dei Magi a Firenze, col percorso va da Palazzo Fitti, gli Uffizi, Georgofili, Piazza della Signoria, il Duomo, il ritorno, e anche lì quando si esce da Palazzo Fitti ti trovi davanti una marea di gente, circa 80.000 persone, anche lì, e sempre a rappresentare il comune. Queste sono quelle istituzionali. Esatto. Poi andiamo in giro a fare quelle come quelli vengono da noi, noi andiamo a fare quelle degli altri. Quella più divertente ultimamente è stata quella abbiamo fatto all'Isola d'Elba, in cui torneremo anche questo settembre, anche lì la rievocazione della fine del 1500. Siamo un po'. Un po' al limite, però è divertente. Anche Vallo la nave, sta due giorni fuori. Il finale Emilia, ne abbiamo fatte tante. Un'altra di quelle è stata divertente all'Aquila, a Tagliacozzo, quella in Gran Bretagna. Ora la ridico in inglese perché ho lo dico io. Poi Hermoston Castle, Ezio, Essex, certo. Siamo stati in Austria, siamo stati a Bolzano, a Sluderno, nella provincia di Bolzano, a Bretten. C'è una gran voglia di guerreggiare, però con le lance, non con le picche. A proposito, fermi. Allora, ora mettiamo un altro brano e poi si parla seriamente di armi perché qui non si scherza. Ma un brano serio, Ma non lo so. Take your baby by the hand, make her do a high handstand. Take your baby by the heel, do the next thing that you feel. We were so in phase, in a dance hall days. We would go on craze when I, you, and everyone we knew. Sharing what was true, I said. Dance all days long. Take your baby by the hair. in a dance hall days. We were cool, our grace. When I, you, and everyone we knew believed, do share in what was true. I said, dance all days, love. Dance all days. Dance all days, love. Take your baby by the wrist and in her mouth an amethyst, and in her eyes to sapphire's blue. And you need her and she needs you. And she needs you. But you need her and she needs you. But you need her and she needs you. And you need her and she needs you. We were so in phase in a dance hall days. We were cool, un tuffo nel passato, nella mia infanzia. Wang Chung con aspetta, Ora, no, aspetta, adesso stasera il telefono aspetta, proprio tipo con Dance All Day. Però ho trovato questo giochino a notte inoltrata. Vediamo se ti facciamo rubare da qualcuno. Però possiamo dire, aspetta un po', chi sono? Erano dei primi anni 80. Questa era rotazione fissa a DJ Television su Italia 1. Buon ascolto. Dalle F frequenze, ma anche da Italia 1 di all'epoca. Simpatici amici. Ma finalmente siamo al momento clou di Scannagallo per noi maschietti, le armi. Allora, la domanda potrebbe essere posta così: e nel 1500 di che si moriva? Come si faceva? Oltre alla peste, stavo per dirtelo, di tante infezioni, di peste, di fame. Ecco, ma volontariamente. E chi, ecco, esatto, e chi non riusciva a morire di peste e di fame? Di solito trafitto o da una spada o da una picca. Oh, trafitto. Da trafitto. Una picca. E io pubblico, diciamo, una foto di picche. Con divertimento anche da una bella palla d'archibugio. Allora calma, faccia, bravo. Calma, perché questo... facciamoci da una parte. Facciamoci, ecco, da una parte. La picca. Apro, scusa, apro subito una parentesi. E poi perché fuori onda Alessio mi diceva dei modi di dire, no? Siccome di facciamoci da una parte, dopo ricordatemi che parliamo dei modi di dire, perché sono l'Alzheimer. Che vengano tutti dal 500. Vedi, vedi, vedi. Ma torniamo comunque alle armi. Ti dicevo, la picca, che arma è? La picca è un'arma in asta, intanto, perché c'è le varie definizioni. Questa è un'arma in asta, lunga 5 metri, con una muscide... anche maneggevole. Sì, molto maneggevole, perché sì, incredibilmente sì, perché ci sono delle tecniche apposite per poterlo utilizzare. Andavano in guerra col camion, perché per portarla... No, la porti in spalla e si bilancia benissimo, e quando sei stanco la abbassi e la trascini, semplicemente. Sì, incredibile. 1500 erano avanti. Tutto da imparare, veramente. Lo so. Altri tipi di armi? Vabbè, chiaramente le spade c'erano di tre tipi fondamentalmente: la spada da lato, la bastarda e lo spadone, la spada a due mani. La bastarda era quella che ti ammazzava, perché quando morivi facevi... No, ti ammazzavano tutti. La bastarda era perché era nel mezzo tra lo spadone a due mani e la spada dal lato, era una mano sola. Cioè, una spada da una mano la utilizzi con una mano in combattimento normale, la spada una mano e mezzo la puoi impugnare a due mani o una mano sola, a seconda della forza e dell'agilità della persona e della tecnica. Soprattutto lo spadone a due mani era uno spadone di 1,65 m che veniva utilizzato a due mani, raramente per combattimenti corpo a corpo, ma soprattutto per spezzare le picche. Praticamente era un'arma utilizzata anche il nostro Ivo prima di morire, ovviamente, un attimino. Un paio di picche rotte ci vuole. Ci vogliono un paio di picche rotte. Praticamente chi lo utilizzava veniva chiamato doppio soldo, era solitamente un tedesco, l'anziano, ecco, per la prestanza fisica, doppio soldo, perché prendeva una doppia paga. Lo pagavano doppio rispetto a tutti gli altri, se sopravviveva. Ovviamente. Ovviamente. Si poneva davanti agli schieramenti di ficchieri nemici, entrava nel mezzo e con questa spada tenuta a due mani cercava di spezzare le picche degli altri, creando un varco per gli armati del suo schieramento. Allora, qui le curiosità sono mille, io so già che non riusciremo a esaudirle tutte. Però, per esempio, alla luce di quello che mi stai dicendo, che ci stai dicendo, avete una coreografia voi nella vostra rappresentazione? Coreografia? Coreografia, diciamo che si organizza la battaglia nel modo più congruente e storico possibile. Allora, aspetta, organizzate nel modo più congruente possibile la battaglia? Sì, grazie, ci stiamo. Normalmente sì. Ecco, chi lo studia? Come fate? Cioè, che, come, allora, per quello che riguarda Scannagalla abbiamo una fortuna enorme. Praticamente ci sono i testi del 1500, di pochi anni dopo, scritti ahimè dai vincitori, quindi vanno presi con le molle, chiaro, chiaramente, in cui descrivono esattamente come è andata la battaglia. Chiaramente noi non abbiamo 30.000 uomini per farla, certo, però i movimenti iniziali e gli assalti che facciamo sono più o meno accadenzati con quello che è stata veramente la storia. Mandiamo prima, ecco, le picche, poi gli uomini d'arme, poi facciamo intervenire gli archibugieri, due o tre cannoni, anzi falconetti perché è il nome giusto, abbiamo anche quelli. Io volevo fare una domanda, perché mi sembra di aver capito che per utilizzare anche queste armi c'è una certa fisicità, bisogna essere solo, un po' anche allenati fisicamente. Un po' allenati magari meglio, sì, soprattutto per non farsi male, però la fisicità viene soprattutto nell'utilizzo dello spadone a due mani, le altre sono armi abbastanza leggere. Non è che, come tutti pensano, le spadone sono pesanti, no, perché poi ti stancavi e morivi. Uno doveva essere agile e svelto per sopravvivere, non doveva durare fatica. Silvia, scusa, un abito, sì. Quanto può pesare? No, i nostri abiti sono leggeri, l'abito è leggero. Quello che va a incidere sul peso è l'armatura del soldato, perché l'abito è leggero. Ma era leggero anche all'epoca o adesso lo fate per una questione? No, diciamo che allora l'abito, per quanto riguarda allora l'abito praticamente della dama, quello comincia a essere già più pesante, più ingombrante. L'abito della dama, per quanto praticamente possiamo farlo cercando insomma di ricordarci che siamo nel 2014, quindi chiaramente, certo, anche i tessuti non sono più quelli di una volta, sono magari un po' diversi. Poi purtroppo per fare l'abito di una dama i tessuti sarebbero preziosissimi, si parla di damasco, si parla di broccati, si parla di seta, quindi è chiaro che noi non possiamo permetterci una cosa del genere, quindi chiaramente dobbiamo utilizzare dei tessuti che sono velluti, che sono insomma più della nostra portata. Quindi diciamo che è comunque rimane più leggero l'abito della dama ricostruito piuttosto di quello, certo, del passato. Quindi insomma, però per gli abiti militari più o meno i tessuti erano quelli, insomma, dipende, diciamo, dello spessore della roba ci si metteva, sì, sotto e sopra l'abito, ecco, esatto, perché se sopra il vestito normale ci mettevi il gambeson, che sarebbe un giacchetto imbottito che sta sotto l'armatura per impedire all'armatura di farti male alle spalle, comincia a aumentare il peso. Poi l'armatura, certo, di per sé pesa una ventina di chili, quindi fa il conto, un altro chilo l'elmo, un chiletto la spada. Ecco, anche le armi hanno il peso che avevano. Allora, le armi, bisogna starci attenti a quello che si vede in giro nelle rivocazioni. Molte sono, passatemi il termine, un po' paccottaglia. Le nostre, passiamo. Le nostre, quasi tutte, non tutte, ma quasi tutte, sono rifatte sulle dimensioni, il peso e gli spessori museali. Cioè addirittura a metà della nostra storia si è ottenuto il permesso alla sovrintendenza d'Arezzo di andare al museo medievale d'Arezzo, dove c'erano anche pezzi del Rinascimento. La dottoressa Refici ci ha consentito di entrare nel museo e di misurare gli spessori delle armi una ad una per riprodurle uguali. L'ha fatto anche un amico mio, un fabbro di Rapolano, notissimo a Foiano tra l'altro. Bellissimo, incredibile. Dobbiamo per forza andare con un altro brano. Peccato, perché sarebbe da parlare, ma continuiamo. Io, dopo, tra l'altro, sento in lontananza rulli di campa. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks, on again. gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Nick Cave e alcuni suoi amici. No, scherzo, sono The Bad Seeds. Madonna, perché lo... Ma va detto di non dirlo. Red Right Hand. Spettacolo nello spettacolo. Red Right Hand. Allora, il British Institute a te proprio... Ma guarda, non ti farebbe entrare. Detto anche il poeta del rock, comunque. Okay. Ma è così. In Italia in italiano ti riprendi un po'. The Black Poet. Piazza alta. Scannagallo. Allora, abbiamo raccontato tante cose, ce ne sarebbe da raccontare tantissime altre. Però dobbiamo dire almeno una cosa certa: la data in cui avviene la rievocazione storica. Quest'anno il primo dove? A Pozzo della Chiana, ovviamente il primo weekend di luglio, 4 e 5 luglio. Faremo un altro intervento a Foiano il 29 di marzo, in occasione della Sagra del Ciambellino. Faremo il mercato storico come l'anno scorso e ci sarà anche qualche sorpresa. Che pare il Ciambellino, per farlo venire bene con il buco, ci vogliono i picchieri. Il Ciambellino era una torta normale, poi sono arrivati i picchieri e ci hanno fatto il Ciambellino. Il Ciambellone. Ma stavamo finendo appunto con le armi, abbiamo detto tutto. Ci sono delle curiosità. Esatto. Scannagallo è anche cultura. Bravo, no, soprattutto. Soprattutto cultura. Ci sono dei modi di dire che mi risulta, perché ce l'avete un po' accennato adesso, vorrei approfondire. Sì, che vengano dal nostro passato. Ecco, che sono arrivati da quell'epoca. Facci un esempio, Alessio. Velocissimi, perché ce ne sarebbe tanti. Quello certo. Più comune si dice, quando siamo in fondo a fare una cosa, dice siamo alle porte o sassi. Vero, questa questa sì. La dite. Certo. Significa che quando il nemico aveva superato le prime due strate di mura, era all'ultimo strato, perché le mura del castello erano in tre sezioni. Passava la prima, passava la seconda, la terza c'era la porta. Per difendersi da quell'assalto, quelli erano sulle mura, tiravano i sassi, e quelli erano sotto perché erano proprio in verticale. Quindi siamo alla fine, proprio... siamo proprio alla porta o sassi. Bellissimo. Oppure siamo al verde? Siamo al verde, questo. Questo è abbastanza comune oggi. Sì. Quando colavano le candele, perché le candele le facevano, lo vedrete se venite il 29 qui a Foiano, perché si fa anche questo. Prendevano lo stoppino della candela, ci facevano colare sopra la cera, e in fondo, per metterla insieme, per tenerla insieme, ci mettevano un nastro, e normalmente era verde. Quando la candela era finita, eravamo al verde. Era finito. Che bello. E questo Sarebbe ce ne sono interessante altre, ma anche poi... le cose velenose facevano per dire i tedeschi, l'Anzichenecchi. Questa mai detto. Questa è pasciuta molto adesso. Dilla, dilla. Quando abbiamo iniziato si diceva morivano di peste anche perché i Lanzichenecchi la portarono in Italia apposta. Avevano scoperto che la peste sono batteri fecali, non si sa come l'avessero scoperti, ma insomma era l'infezione. Allora, quando andavano a fare i loro bisogni, si portavano dietro la spada e la mettevano sotto, in modo che la imbrattavano ben bene, e quindi ferendo quando un poi ferivano vedi le volte le usanze e costumi locali. Ma i costumi locali, ma vedi, a raccontare tutte queste cose ti viene da dire: ma quanto mi ci vuoi l'ambiente a fare il lavoro? Ci sono notizie. Ci sono notizie, ti cambiano le cose come se fossero un altro par di maniche, che so, dimmi. Un altro paio di maniche. Già, anche questo è un detto che viene dal 500. Voi dovete sapere che le dame, quando praticamente per realizzare i loro vestiti, spendevano diversi soldi. Chiaramente siamo nel periodo del massimo sfarzo, del lusso, certo. Quindi c'era una gara tra le varie nobildonne a chi avesse l'abito più bello, più costoso, ma questi abiti appunto costavano tantissimo. Allora siamo un po' sul campo delle ipotesi, comunque non è dato per certo. Okay. Sembra che le dame sostituissero le maniche dell'abito. A un certo punto del 500 dovete sapere infatti che dall'abito della dama si stacca la manica e viene unito attraverso dei nastrini. Quindi le dame potevano cambiare le maniche. E quindi da questo era un altro paio di maniche. Un altro paio di maniche. Incredibile. Quante cose ti insegno? Veramente. Un'altra piccola curiosità, ad esempio, riguarda la regina di Francia, Caterina di Medici, andata a sposa Enrico II, re di Francia. Dovete sapere che Caterina de' Medici, quando arrivò in Francia, diciamo che non riuscì a farsi proprio ben volere dalla corte francese, uh-huh. Tant'è vero che l'appellavano con disprezzo, la bottegaia fiorentina veniva chiamata, era un po' rotondetta, grassocella, bruttina, tant'è vero che poi sto povero Enrico II si è portato portato l'amante dietro, i vari avanti si portava. Fatto sta che lei portò tante cose alla corte di Francia e portò anche le mutande. Mutande che erano chiamate le braghesse, oppure in termine molto dispregiativo venivano chiamate briglie da culo, perché le dame dovete sapere che non usavano le mutande, perché le mutande venivano utilizzate dalle prostitute. Quindi chiaramente era un segno di disprezzo, era dispregiativo. Ecco perché queste mutande che Caterina importò in Francia, perché lei amava andare a cavallo, quindi chiaramente doveva alzarsi la gonda, quindi qualcosa sotto doveva pure avere. Quindi chiaramente per le dame però queste mutande che venivano indossate praticamente dalle prostitute non andavano bene, venivano dispregiate con questo termine, appunto, briglie da culo. L'ultima cosa che riguarda Caterina de' Medici è legata al colore, famoso colore di Caterina de' Medici. Dovete sapere che nel 500 le dame indossavano, non avevano le mutande, però avevano una lunga camicia praticamente, ed era la biancheria intima. Questa lunga camicia solitamente era di lino bianco, però voi dovete anche sapere che le condizioni igieniche del tempo erano quello che erano. Certo. Quindi chiaramente, oltre a lavarsi poco, infatti usavano spesso tantissimi profumi proprio per coprire gli odori, gli abiti praticamente venivano lavati pochissime volte. E successe questo, che a un certo punto Caterina de' Medici, indossando sempre la stessa camicia, e questa camicia cominciò ad assumere un colorino, diciamo, un po' bianco sporco. Però questa era la regina di Francia, quindi. E quindi passò alla moda, divenne moda praticamente, e passò alla storia con il nome di colore di Caterina de' Medici. Vedi Marcia, l'avrei chiamata spumatina io. E qui che siamo nella terra del Saracino, della giostra del Saracino, l'ultimo aneddoto che insomma voi dovreste conoscere, quando si dice si parte, lancia e resta. Sì. Che significa e perché? Perché sul cavallo, non lo sa. Perché le armature da giostra hanno uno spunzone qui sul petto a destra che si chiama la resta, viene appoggiata la lancia sopra quando parti per dare il colpo alla lancia. Quindi parti al galoppo, parti a corsa, vai, partito, lancia e resta, significa, come si dice oggi, va alla massima velocità. Purtroppo non so se ce la meritiamo tutta questa volta. No, non ce la meritiamo sicuramente. C'è Imo che dice: no, dicevo una cosa per ricongiungermi al famoso discorso delle mutande che avevi detto prima? Mutande, sì, le mutande, le mutande. Il famoso motto cavalcare a pelo, non c'erano. E con questo, la cultura sulle 23 ce l'abbiamo messa. Grazie, bellissimo. Grazie a tutti per essere stati con noi, per averci ascoltato. Grazie ai nostri ospiti. Concluso in cultura. Concluso in altissima cultura. Un saluto da Piazza Alta, ci rivediamo giovedì prossimo. Che siamo sempre sotto la terza decade dell'acquario. Sì, il 19 febbraio, 18 marzo, finì compie gli anni, quindi siamo in cuspide. Sì, siamo in cuspide quest'anno. Allora, direi basta così. Grazie veramente per essere stati con noi, per averci raccontato tutto questo. Eravamo certi che se avessimo avuto 2 ore non sarebbero comunque bastate, però è stato bello lo stesso. Grazie a tutti, a giovedì prossimo. Avete ascoltato Piazza Alta, un programma di e con Marzi e Enzino. Alla parte tecnica Simone Une. E alle riprese video Paolo. Paolo. A giovedì. Buon ascolto. Giovedì. Dal 1976. Ehi. Radio F.